Buongiorno di Simone Spezia. Al Comune di Roma nuovi arresti per tangenti. Manette imprenditori, responsabili di cooperative, funzionari al centro del business per la gestione dei campi nomadi. Operazioni di polizia contro i Notav, finiscono in manette a Torino 11 persone per un tentato assalto al cantiere. La reazione, tempismo sospetto dopo l'elezione di Appendino. Al via domani gli esami di maturità con la prima prova scritta. 500.000 i candidati, denunciati 4 hacker avrebbero provato a bucare il sito dell'Invalsi. Meno 2 giorni al voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Secondo un sondaggio, i favorevoli alla permanenza avrebbero 7 punti di vantaggio. Europei di calcio, oggi in campo i gruppi C e D, occhi puntati sulla partita Croazia-Spagna, soprattutto per i destini dell'Italia che giocherà poi domani. Aborto, problema parzialmente risolto a Trapani, dove era andato in pensione venerdì l'unico medico non obiettore, ne arriverà un altro ma resta l'unico. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, il nostro canale Telegram per avere le anticipazioni sulla trasmissione, telegram.me/effettogiorno, infine la nostra mappa che potete raggiungere dal sito www.radio24.it. In apertura dunque parliamo di quello che è successo a Roma all'indomani del voto, una serie di arresti negli uffici. 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 2 domiciliari più una misura interdittiva. Si apre una nuova inchiesta della Procura per corruzione a Roma, questa volta su un giro di mazzette al comune che chiama in causa alcuni imprenditori legati alle cooperative, un funzionario comunale, un vigile urbano, dipendenti del Dipartimento delle Politiche Sociali e della Salute. Il giro di presunte tangenti risale al periodo tra fine 2013 e marzo 2014 e riguarda la gestione di alcuni campi nomadi della città. Contestati corruzione, falso in atto pubblico e turbativa, gli inquirenti tengono però a sottolineare che non c'è un collegamento tra questa indagine e il procedimento su Mafia Capitale. L'unico legame, la presenza tra gli indagati di Emanuela Salvatori, la funzionaria del comune che lo scorso novembre venne condannata a 4 anni di reclusione in abbreviato per i suoi affari con il RAS delle cooperative Salvatore Buzzi in uno dei rivoli di Mafia Capitale. E intanto non perde tempo Virginia Raggi e su Twitter il commento: un'altra inchiesta sui campi Rom tra arresti e tangenti, il mio grazie alla procura e alle forze dell'ordine. Ora voltiamo pagina. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E nell'altra città che ha eletto una sindaca 5 Stelle, Torino, scattano invece arresti fra i Notav. Resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lesioni personali e turbativa dell'ordine pubblico sono i reati contestati ai 20 attivisti del movimento Notav, raggiunti stamattina da 2 fermi e 18 misure cautelari per i disordini che il 28 giugno dello scorso anno riguardarono il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte in Val di Susa. A margine di una manifestazione contro la Torino-Lione, avrebbero tentato di abbattere la recinzione del cantiere con delle funi. Di Torino e Modena i 2 fermati, oggetto nei giorni scorsi di perquisizione da parte della Digos. Gli altri, agli arresti domiciliari o soggetti a obbligo di firma, fanno tutti parte, secondo gli inquirenti, dell'area antagonista piemontese, emiliana e romana. Tra loro c'è anche la storica attivista Marisa Meyer, di 71 anni. Notav.info, voce ufficiosa del movimento, parla di tempismo quanto mai sospetto. Il riferimento è alle parole del neosindaco Chiara Appendino, che appena eletta ieri aveva promesso di sostenere le ragioni del no al tavolo dell'osservatorio sull'alta velocità. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E visto che abbiamo parlato di Virginia Raggi e Chiara Appendino, andiamo all'aggiornamento sulla politica. 2 giorni dal voto, abbiamo in diretta Teresa Trillò da Roma. Teresa, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. I neosindaci di Roma, Torino, Milano sono al lavoro per definire la squadra di lavoro per i prossimi 5 anni. A Roma Virginia Raggi sta scegliendo le ultime tessere del mosaico. Si tratta per avere Marcello Minenna, dirigente Consob, con un ruolo nella segreteria del commissario Tronca, all'assessorato al bilancio. Un compito decisivo, quello dell'assessore al bilancio, perché la capitale deve fare i conti con un debito enorme, 12 miliardi di euro accumulati chiaramente negli anni. E la neosindaca Grillina ha promesso in campagna elettorale di ristrutturare il debito pubblico, il debito storico, scusa. Un compito non facile perché dovrà trattare con il governo Renzi. Sempre a Roma, il futuro assessore all'urbanistica, Paolo Berdini, dice che nei primi 100 giorni farà un piano di rilancio della rete dei trasporti. Anche a Torino, il sindaco 5 Stelle, Chiara Appendino, lavora alla messa a punto della squadra e ha affrontato subito un tema spinoso, la TAV. Appendino dice che il sindaco non può bloccare la realizzazione del collegamento ferroviario dell'alta velocità Lione-Torino, ma sosterrà le ragioni del no e chiede anche le dimissioni del presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, nominato dall'ex sindaco Piero Fassino. A Milano, il sindaco di centrosinistra Beppe Sala presenterà la squadra di governo entro una settimana. La giunta sarà formata da metà donne e Sala dovrebbe tenere per sé la delega alla casa e alle periferie. Infine, sul fronte politico si registra la polemica all'interno del PD innescata dall'ex segretario Bersani che attacca. Il PD dice ha perso e Renzi abbia l'umiltà di riflettere. È tutto, a te la linea, Simone. E grazie a Teresa Trillò per questo aggiornamento. Eravamo su Torino, restiamo a Torino, dove un uomo si è barricato in casa e ha minacciato di farsi esplodere. Per fortuna, a quanto pare, le cose sono andate bene. Miriam Corgiat è in diretta da là. Buongiorno Miriam. Buongiorno Simone, sì, mi trovo in via Chiusella nel quartiere popolare di Barriera di Milano. Qui si è conclusa circa mezz'ora fa l'emergenza. Infatti, come ricordavi, un uomo di 42 anni per opporsi allo sfratto esecutivo si è barricato in casa con due bombole di gas e degli accendini minacciando di provocare un'esplosione. Questo intorno alle 8 del mattino. Per sicurezza è stato evacuato tutto il condominio. L'uomo viveva in un appartamento con la moglie, entrambi però avevano da tempo perso il lavoro e quindi da più di un anno non pagavano l'affitto. Da qui insomma lo sfratto per i due, e intorno alle 12, come dicevo prima, l'uomo è stato fatto uscire grazie all'intervento di un mediatore anche con l'aiuto della moglie, ed è stato scortato dagli infermieri della Croce Verde e adesso si trova in ospedale per degli accertamenti. Un episodio che non è del tutto nuovo né agli inquilini di quella casa né al quartiere. Infatti Barriera di Milano è un quartiere popolare dove il disagio sociale è molto forte, una condizione che si è anche riflettuta nei risultati del ballottaggio. Infatti qui il Movimento 5 Stelle, che aveva come candidato Chiara Appendino, ha guadagnato il 63% delle preferenze. Per il momento è tutto da Torino, la linea torna a te. Ti ringrazio, grazie a Miriam Corgiat. Veniamo a un'inchiesta riguardo degli hacker che volevano penetrare, bucare il sistema Invalsi. Sono entrati nel sito di Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, alla vigilia della maturità. Quattro giovani hacker sono stati per questo denunciati dalla polizia per accesso abusivo informatico, come spiega il vice questore aggiunto della Polizia Postale, Ivano Gabrielli. Sono quattro ragazzi appassionati di computer che hanno provato a violare i server dell'Istituto Invalsi. Erano riusciti a posizionare all'interno del server una cosiddetta backdoor, un programmino che poi avrebbe permesso l'accesso dal remoto sul server. Un'operazione a pochi giorni dal lancio della campagna Maturità al Sicuro, con la quale la Polizia Postale cerca anche di debellare il fenomeno delle tante bufale che ruotano intorno alle prove di esame, per evitare, spiegano, che gli studenti possano perdere tempo e denaro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di maturità dunque parliamo, sarà domani la prima prova e come da tradizione stasera la notte prima degli esami di Radio 24 e come da tradizione con Federico Taddia che è in studio con me. Federico, ciao. Eccoci qua, ciao Simone. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da stasera e che cosa si devono aspettare i ragazzi domani? Domani, guarda, stavo guardando a proposito di bufale, no? Il Toto Traccia, sai chi è il più gettonato? Come... Dai, vai. Umberto Eco, poi 70 anni della Repubblica, l'ISIS, i diritti degli omosessuali, come sempre c'è un po' il gioco del tentare di prevedere. E questa sera faremo la solita maratona, tante voci, tanti personaggi famosi che racconteranno la loro maturità. Avremo Guccini, avremo Cristiana Capotondi, avremo Samantha Cristoforetti, avremo Nadia Toffa, Emma, e poi le voci dei maturandi che ci racconteranno le loro ansie e le loro tesine, che secondo me le tesine è il vero gioco. Adesso stavamo ascoltando il servizio di questi hacker. Ieri ho intervistato un maturando che lui come tesina ha portato un software per calcolare le assenze dei professori, perché grandissimo, loro contano sempre le nostre assenze. Adesso saremo anche noi a contare le loro da vendere al MIUR, da vendere al ministero. 500 3.452 sono i candidati, sono i maturandi, 12.544 le commissioni, perché ricordiamo che la maturità comunque è una sorta di esame anche per i docenti interni e esterni, che insomma anche loro sono lì a valutare. Il ruolo del valutatore non è un ruolo facile e lo sappiamo, quindi è un bel momento sempre, rito di passaggio, formalità, non lo so, è comunque un qualcosa che segna, c'è un prima e c'è un dopo della maturità e credo che questo significato debba essere mantenuto vivo. Da che ora Federico? Dal 21 al 24, 3 ore in diretta con me e Chiara De Lo Iacovo, la cantante che ci accompagnerà in studio con la sua musica live e tante voci di ascoltatori e personaggi famosi per vivere insieme la notte prima degli esami. Benissimo, appuntamento dunque alle 21 con la notte prima degli esami e Federico Taddia. Noi adesso cambiamo argomento decisamente e veniamo durante un'altra inchiesta, quella che riguarda la Popolare di Vicenza. Dopo l'ordinanza della Procura di Venezia di 2 giorni fa che ha bocciato i finanziamenti cosiddetti baciati della Popolare di Vicenza, annullando la pretesa della banca di vedersi il rientro di un fido, la Guardia di Finanza torna oggi a perquisire la sede dell'Istituto Berico. Da stamattina sono in corso acquisizioni di documenti per far luce proprio sui finanziamenti baciati, quelli per i quali si prestava denaro in cambio di acquisto di azioni. In particolare le Fiamme Gialle, su mandato della Procura di Vicenza, cercano di individuare le responsabilità dell'ex CDA, chiamato ad avallare ogni tipo di operazione di finanziamento. Sotto la lente i finanziamenti più onerosi, tra cui i fondi concessi al gruppo che fa capo l'imprenditore Alfio Marchini, candidato sindaco a Roma alle ultime 2 tornate elettorali, che avrebbe ottenuto alla fine del 2014 76 milioni di euro attraverso fondi maltesi. Al momento risultano iscritte al registro degli indagati 6 persone, tra cui l'ex presidente della Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, e l'ex direttore generale, Samuele Solato. Katy Mandurino, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza. E a proposito di banche, alla vigilia del termine dell'offerta in opzione ai soci di Veneto Banca, il book da 1 miliardo di euro dell'aumento di capitale risulta coperto all'1%, vale a dire un controvalore di circa 10 milioni di euro. Lo riferiscono a Lanza, sono notizie che riferisce Lanza, su fonti vicine all'operazione, dando per scontato l'arrivo di Atlante con una partecipazione simile a quella detenuta proprio nella Vicenza, intorno al 99%. Restiamo sull'economia e passiamo alla Brexit. Un nuovo sondaggio questa mattina, Sergio Nava. Sì, buongiorno Simone. Un sondaggio del Daily Telegraph, un quotidiano conservatore, tra l'altro sostiene che l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione dà un sondaggio shock al contrario, se vogliamo, perché secondo questo sondaggio sarebbe il 53% ormai tra l'elettorato favorevole al rimanere contro il 46% favorevole all'uscire dall'Unione Europea, quindi un sondaggio letteralmente ribaltato rispetto a una settimana fa, cioè prima dell'omicidio della deputata Jo Cox, che avrebbe provocato un'onda emotiva in grado addirittura di ribaltare le previsioni. Attenzione però, sempre di onda emotiva si tratta, quindi mancano ancora 2 giorni e soprattutto la media dei sondaggi dà ancora un 44 a 44, se mettiamo tutti i sondaggi assieme e facciamo una media ponderata, siamo ancora a 44 a 44. E poi ci sono le dichiarazioni, il presidente francese Hollande, la Gran Bretagna in Europa, la Gran Bretagna fa parte dell'Europa, la Gran Bretagna porta i valori dell'Europa, auspichiamo che la risposta sia una fiduciosa nel futuro dell'Europa con la Gran Bretagna, così Hollande. Oggi l'endorsement al campo del Remain, cioè del restare in Europa, da parte dell'ex calciatore inglese David Beckham, mentre George Soros avverte se ci sarà la Brexit, preparatevi a un venerdì nero. E per chiudere, stasera alla Wembley Arena, dibattito della BBC di 2 ore con ospiti sia da una parte che dall'altra, cioè tra chi vuole restare e chi vuole andarsene, ospiti d'eccezione tra cui l'ex sindaco di Londra Boris Johnson e l'attuale sindaco di Londra Sadiq Khan. Insomma, ne vedremo ancora delle belle. Giovedì in Gran Bretagna si vota, ti restituisco la linea. E grazie al nostro Sergio Nava che sta tra l'altro realizzando il viaggio che mandiamo in onda tutte le mattine nei nostri giornali radio, e poi sarà anche il nostro inviato a Londra per raccontarci questo referendum. Veniamo adesso, tra l'altro, a proposito di Europa, è arrivato questa mattina il via libera della Corte Costituzionale tedesca al cosiddetto piano antispreado salva euro varato dalla Banca Centrale Europea nel 2012. L'alta corte di Karlsruhe ha deciso la costituzionalità dell'OMT, l'Outright Monetary Transitions, lanciato dalla BCE nel settembre 2012. Respinti diversi ricorsi sulla costituzionalità del piano, che comunque, lo ricordiamo, non è mai stato attuato dalla Banca Centrale Europea. Nessuna ipotesi di integrazione tra RCS e il gruppo 24 Ore, a dirlo è Gabriele Del Torchio, neo amministratore delegato a margine dell'incontro Innovazione e Formazione, le leve per la crescita delle PMI, che si è svolto a Milano, qua nella sede del Sole 24 Ore. Sentiamo al microfono di Anna Marino. questo non fa parte del programma. Io credo che Sole 24 Ore abbia tutte le caratteristiche per continuare a crescere, per continuare ad essere un punto di eccellenza nel panorama dell'editoria italiana, un punto soprattutto ricchissimo di contenuti. Questa è un'azienda con tutte le sue varie declinazioni, la scuola, la formazione appunto, ma il giornale, ma il digitale, che ha dei contenuti, le banche dati, che ha dei contenuti veramente di assoluta eccellenza. Quindi questo io lo escluderei. E oggi, proprio qua nella sede del Sole 24 Ore, è stato presentato un accordo sulla formazione tra il nostro gruppo e Intesa San Paolo. Ricerca e sviluppo, innovazione e formazione. Sono questi i quattro fattori critici di successo del sistema imprese, soprattutto per le piccole e medie. E questo è il punto di partenza dell'incontro Innovazione e Formazione, le leve per la crescita delle PMI, organizzato a Milano da Intesa San Paolo e il gruppo 24 Ore. L'Italia è uscita dalla recessione, ma il differenziale di crescita accumulato nell'arco di 15 anni rispetto alla media dei paesi dell'Eurozona è superiore al 16%. Quindi bisogna andare oltre, come sottolinea Gregorio De Felice, direzione studi e ricerche di Intesa San Paolo. Il sistema ha vissuto una forte selezione che ha visto le imprese che innovano di più tenere. Negli ultimi 15 anni abbiamo accumulato 18 punti percentuali in meno di crescita del PIL italiano rispetto al PIL tedesco. È necessario quindi un recupero di questo gap. Va in questo senso l'accordo stretto tra Intesa San Paolo e il gruppo 24 Ore per realizzare corsi di formazione delle giovani generazioni dei manager d'impresa, come spiega Stefano Barrese, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo. Metteremo a disposizione le 6 sedi del Sole 24 Ore sul territorio, che si affiancheranno a oltre 250 filiali del gruppo, consentono di portare la formazione sui punti più capillari del territorio. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo agli europei di calcio, il punto di oggi, Carlo Genta. Ciao Carlo. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Il punto di oggi parte da quello di ieri. Ieri sera abbiamo visto una brutta Inghilterra pareggiare 0-0 con la Slovacchia e arrivare seconda nel girone dietro a un grande Galles che invece ha battuto 3-0 la Russia, sempre nel segno di Gareth Bale, probabilmente il miglior giocatore di questo europeo fin qui. Dunque Galles primo nel girone, Inghilterra seconda, passa come terza anche la Slovacchia che ha 4 punti, non dovrebbero esserci problemi. Oggi si giocano 4 partite, si torna alle partite pomeridiane, alle 18 Irlanda del Nord Germania e poi Ucraina-Polonia, con l'Ucraina già eliminata, e sarà un confronto a distanza tra Germania e Polonia per vedere chi arriverà prima in questo girone, cosa che ci interessa abbastanza visto che sarà un incrocio probabile per l'Italia. Alle 21 torna in campo la Spagna con la Croazia ed è la partita che determinerà la prima in questo girone. È molto importante arrivare prima in questo girone per evitare innanzitutto l'Italia e poi per avere un tabellone favorevole nel prossimo turno, nel turno degli ottavi. Si gioca anche Repubblica Ceca Turchia, con la Repubblica Ceca Turchia a 0 punti, Repubblica Ceca a 1 e qui si combatte per un eventuale terzo posto aspettando il risultato dell'altra gara. Domani, lo ricordiamo, tornano in campo gli azzurri con l'Irlanda, formazione che sarà totalmente rivoluzionata da Antonio Conte per ragioni di turnover, di fide e di riposo che deve essere concesso ai titolari. Quindi aspettiamo le gare di stasera e poi domani alle 21 gli azzurri di nuovo in campo. E grazie anche a Carlo Genta, che ritroviamo come sempre alle 14 con tutti i convocati. Adesso il traffico, poi ci ritroviamo per il nostro consueto giro per l'Italia e partiremo da Trapani, dove per qualche giorno, e parliamo di aborto, per qualche giorno a Trapani non c'è stato nemmeno un medico che non fosse non obiettore, cioè erano tutti obiettori perché l'unico non obiettore era andato in pensione, poi ne è arrivato un altro ma appunto resta l'unico. Parleremo col commissario della ASL. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dei nuovi arresti per tangenti al Comune di Roma, dell'operazione di polizia contro i Notava, abbiamo parlato degli esami di maturità, abbiamo parlato di Brexit con questo nuovo sondaggio che indica ampiamente in vantaggio il Remain, abbiamo parlato di europei di calcio. E adesso torniamo su un tema che ogni tanto riemerge e iniziamo da qua il nostro giro per l'Italia, ed è il tema dell'applicazione della legge 194, quella che che regola l'interruzione volontaria di gravidanza, ossia l'aborto. C'è una storia che ha fatto molto discutere, che è arrivata da Trapani nei giorni scorsi, dove era andato in pensione l'unico medico non obiettore, quantomeno all'ospedale Sant'Antonio Abate. Fabrizio De Nicola, il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani. Buongiorno De Nicola, benvenuto. Se posso permettere una correzione, il direttore generale, prima commissario, ora direttore generale. Adesso direttore generale, ok, quindi adesso è, come dire, è pienamente, è quasi normalizzata, per così dire, la situazione, sì, la situazione a Trapani. Mi dica De Nicola, com'è possibile una cosa di questo genere? La notizia positiva è che abbiamo ripristinato, sì, il servizio, per fortuna questa settimana, domani riparte il servizio, e purtroppo tutti i sei ginecologi dell'ospedale di Trapani sono tutti obiettori di coscienza, quindi andando in pensione, peraltro anticipando con delle ferie arretrate quello che era l'unico che effettuava, abbiamo ripristinato in settimana questa possibilità attraverso un intervento che viene fatto da un altro medico che è in un altro ospedale, che non è l'unico non obiettore in tutta l'azienda, che è a Castelvetrano, che per fortuna una volta alla settimana con un'equipe fatta da ostetrici e da anestesisti, anche loro, alcuni di questi non obiettori, perché la maggior parte di questi sono anche obiettori, proseguiremo ovviamente. Mi chiarisca una cosa De Nicola, se sì, ho capito bene da quello che mi stava dicendo, sì, in tutta l'ASL, quindi quella la parte della quale lei, sì, ha responsabilità, che è tutta, sì, la provincia di Trapani, a questo punto c'è un solo medico non obiettore? Ma il problema, se mi consente, è anche più grosso, perché da un famoso quotidiano nazionale qualche giorno fa risultava che in tutto ci sono soltanto 33 ginecologi non obiettori in intera Sicilia. Pensi che abbiamo 17 aziende e decine di ospedali, quindi il problema esiste, perché nella scelta del ginecologo c'è questa possibilità. Nella mia azienda ne avevo uno a Trapani che è andato in pensione, ripeto, uno a Castelvetrano, che potrà continuare a fare ovviamente a Castelvetrano, in quella zona della mia provincia, e poi li effettuerà anche nella mia città di Trapani, quindi non interrompendo questo servizio importantissimo ovviamente per le pazienti, per i cittadini di Trapani. Mi dica una cosa De Nicola, i numeri che avete, a prescindere da tutto il ragionamento che si può fare sul fatto che manca evidentemente in questo caso la possibilità di applicare pienamente una legge dello Stato, che è la legge 194, ma al di là di questo, i numeri che ha, e quindi l'unico medico non obiettore, basta a coprire l'esigenza di servizio? Assolutamente sì, perché è un numero di percentuali che noi riusciamo assolutamente a fare, anche per la presenza, per fortuna, della sua equip fatta da tre ostetrici non obiettori e quattro anestesisti non obiettori, con cui noi organizzeremo il servizio sia a Castelvetrano che a Trapani. Però ovviamente sono pochi, perché è chiaro, certo, che questo problema noi... Cioè coprite il servizio, ma immagino che per lui sia un super lavoro sostanzialmente. Ovviamente si articolerà, questo è un problema organizzativo, perché è chiaro che il suo lavoro sarà organizzato in modo tale che gli altri facciano altro, perché lui possa fare questo ovviamente. Deve tener conto anche che la Sicilia adesso è in una fase in cui probabilmente riusciremo, dico probabilmente perché è in addirittura d'arrivo la possibilità di assumere, e quindi noi siamo da tanti anni con problema di assunzioni di nuovi medici, e quindi ovviamente le nuove assunzioni che faremo in tutte le aziende sanitarie della regione, sì, siciliana, riusciremo ad avere altri soggetti, ovviamente nella loro libertà, speriamo, ipotizziamo che tra questi ci siano anche non obiettori, cioè speriamo, sì, che ovviamente poi per poter, sì, fornire questo servizio abbiamo bisogno anche di ginecologi non obiettori naturalmente. Sì. La ringrazio, grazie Fabrizio De Nicola, direttore generale a questo punto dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, e ci spostiamo su un'altra ASL, quella di Avellino, quindi ci spostiamo ad Avellino con Mario Ferrante, che è in questo caso il commissario straordinario, sì, conferma? Eccoci qua. Allora Ferrante, per tutt'altra vicenda in questo caso, perché ieri avete licenziato in tronco 7 dipendenti che, come dire, c'era il solito problema, i cosiddetti furbetti del cartellino, poi sì, i nostri ascoltatori ci dicono non chiamateli così perché, come dire, diminuite il fatto che nei fatti una truffa ai danni dello Stato, quello che loro effettivamente fanno, però li avete licenziati in tronco questi 7. Sì. Sì. Che facevano? Niente, questi praticamente c'è stata un'indagine anche della magistratura che naturalmente ci ha notificato che 21 indagati che avevano timbrato erano andati via o si erano fatti timbrare per un numero reiterato di ore per vari giorni, e quindi in base a questo c'è stata la sospensione prima battuta già da parte della procura. Noi abbiamo attivato l'ufficio con i procedimenti disciplinari e in due mesi abbiamo chiuso l'iter per i primi 7 che sono stati licenziati senza preavviso e entro il 10 luglio chiuderemo per tutti, sia per gli indagati che per quelli che erano nominati, che avevano partecipato a questa azione di illecito sia dal punto di vista amministrativo che penale. Ascolti Ferrante, non avete usufruito, come dire, delle nuove norme che sono state varate la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri, che lo ricordiamo era un decreto attuativo della riforma Madia della pubblica amministrazione, perché in realtà non erano ancora in vigore, quindi in realtà si possono, mi scusi, in realtà si possono già licenziare i dipendenti pubblici che fanno questa cosa. Allora, noi abbiamo fatto l'iter con la normativa vigente e non è quella della legge Madia, in quanto ancora non è pubblicata e quindi ancora non è attuata e non è vigente ad oggi. Noi comunque abbiamo seguito la prassi della normativa in essere che naturalmente ci ha portato a questa conclusione, ma perché è stato seguito pedissequamente ogni atto, sono state fatte le contestazioni, gli avvocati hanno risposto, l'ufficio disciplina ha fatto le controdeduzioni, insomma c'è stato un iter in due mesi che ci ha portato a questa conclusione. L'ultima domanda che voglio fare brevemente, Ferrante, perché abbiamo veramente pochi secondi. Pensa davvero, alla luce anche di quello che è successo nella ASL della quale lei è commissario, che le nuove norme varate possano essere di aiuto da questo punto di vista e snellire procedure di questo tipo? Io penso che tra il vecchio e il nuovo si può chiudere il cerchio e si possono dare risposte. È naturale che queste risposte, per darle, la pubblica amministrazione deve seguire le procedure in tempi giusti, altrimenti potrebbero essere una serie di cavilli legali che gli avvocati mettono in essere e inviscia il risultato finale. Affinché non avvenisse questo, io praticamente l'ufficio di disciplina si è mosso e ha seguito tutto in maniera molto attenta. Quindi basta seguire in realtà le cose in modo attento. La ringrazio, Mario Ferrante, commissario straordinario dell'azienda sanitaria locale di Avellino. Alla pausa, la borsa, ci ritroviamo subito dopo. Effetto giorno. Perfetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto è a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli: al Comune di Roma nuovi arresti per tangenti al centro del business per la gestione dei campi nomadi. Le operazioni di polizia contro i Notava finiscono in manette a Torino 11 persone per un tentato assalto al cantiere. Al via domani gli esami di maturità con la prima prova scritta, 500.000 i candidati. Meno due giorni al voto sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, i Remain avrebbero 7 punti di vantaggio. Europei di calcio, oggi in campo i gruppi C e D, occhi puntati su Spagna, Croazia, la borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tifiamo per tutti i tifosi. SNAI Easy Play. Play with the Playmakers. Effetto giorno. Effetto giorno, eccoci di nuovo e torniamo brevemente sulle amministrative. Oggi, come sapete, la puntata è più breve perché c'è America 24 con Mario Platero che viene anticipata, poi c'è la nostra rubrica sull'autotrasporto. Abbiamo giusto un paio di minuti, 2-3 minuti per fare due chiacchiere con Andrea Oliva, che è il neo sindaco di Alpignano. Buongiorno Oliva, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, siamo a due passi da Torino, dove siamo in provincia di Torino, dove appunto Chiara Appendino ha vinto contro Piero Fassino e lei è l'unico dei 20 ballottaggi nei quali c'erano i candidati 5 Stelle, lei è l'unico che ha battuto un 5 Stelle al ballottaggio. Esatto. No? Lei però è espressione di una lista civica, no? Sì, noi siamo espressione di una lista civica, anzi direi due liste civiche, perché a mio sostegno c'erano due liste civiche, quindi 32 cittadini del nostro comune che hanno deciso di mettersi insieme e di portare avanti questa candidatura per un progetto civico. Secondo lei, alla fine, lei ha vinto probabilmente proprio perché non era espressione di un partito? Devo dire che questo è stato uno degli elementi, ma l'elemento principale secondo me del nostro successo è stata una campagna elettorale durata 5 anni, perché noi ci eravamo già presentati alle elezioni 5 anni fa, con 3 mesi di preparazione, quindi è stata proprio una cosa velocissima, ci siamo presentati e abbiamo ottenuto già un discreto risultato la volta scorsa con un consigliere di opposizione, quindi siamo risultati il secondo partito, il secondo gruppo politico più votato nel nostro comune. E quindi abbiamo fatto 5 anni di esperienza in consiglio comunale all'opposizione, ma quei 5 anni sono stati la nostra preparazione, anzi la nostra campagna elettorale, e devo dire che l'elemento maggiore che ci ha dato maggiore caratteristica per il successo è stata la presenza sul territorio e soprattutto 5 anni di preparazione. 5 anni di preparazione. Alpignano, ricordiamo, siamo a una 15ina di chilometri da Torino, siamo proprio ad un passo, è una piccola cittadina, sono 16.000 abitanti circa, no, se non sbaglio. Sì, siamo quasi a 18.000, 17.000 e qualche abitante, sì, esatto. Mi dice quali sono le prime 2 cose che vuol fare per la sua città? Allora, abbiamo noi nel nostro programma elettorale, visto che lavorando già in consiglio all'opposizione conosciamo bene gli atti, abbiamo valutato quali sono le problematiche maggiori, abbiamo detto prima la trattazione delle emergenze. Abbiamo 2 emergenze abbastanza importanti, sì, che riguardano l'edilizia scolastica, e quindi la nostra priorità sarà proprio legata all'emergenza scolastica e quindi alla necessità di fare dei lavori per mettere in sicurezza degli edifici scolastici. Questa è la prima cosa, la ringrazio. Grazie Andrea Oliva, sindaco di Alpignano, lo ricordiamo ancora una volta, è l'unico comune nel quale ieri abbiamo parlato tantissimo dei sindaci 5 Stelle che hanno vinto, ne abbiamo ospitati anche 2, è l'unico comune italiano nel quale in un ballottaggio, sui 20 ballottaggi, è l'unico nel quale appunto c'è stato un candidato che ha battuto il candidato del Movimento 5 Stelle. E adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa ha da raccontarci il nostro Mario Platero, poi ci risentiamo alla fine per i saluti.